come back. DJ and Disaster One, Zero Cash. Lost me. Quanti temi su di un beat, quante rime senza un'anima, quanti pensieri persi con il tempo che ti immagina. Viaggi controcorrente, zero che si sente, la risonanza di due voci sparse all'inglesiente. Mente, anima, corpo si fondono in un mondo dove appare una realtà che disperata gira torni senza soldi. Comunque vanno i conti, ci si tiene sempre pronti ad affrontare mari e monti. Solidi problemi, soliti sogni al cassetto, sono solidi cervelli che mantengono l'assetto. Piedi saldi in terra, sotto assedio questa sera. Accende truff ultra gain per creare l'atmosfera. Mantengo i pugni in mid, DJ ferma il disco con un dito. Siamo in vista mattina perché il pezzo è finito. Abbi su di un beat test nello stato allerta. Zero cash a mette luce nella stanza ancora aperta. Bad, come back.